Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Il desiderio è la cosa più importante, è l'emozione del presente, è l'essere vivi in tutto ciò che si può fare, non solo nell'amore. Il desiderio è quando... Buongiorno a voi, riascoltando Giorgio Gaber, ho pensato che poteva essere stimolante parlare con voi di desiderio, di questa cosa importante che nasce misteriosamente. Il desiderio è la cosa più importante che nasce misteriosamente. È il lago crescere di un turbamento che viene dall'istinto. Sentimento, un turbamento, un'attrazione. Che cos'è il desiderio? Forse tutte queste cose insieme, ma che ruolo gioca nella vostra vita e nella vostra coppia? Studio con me, tornate a trovarci il dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Ma sì, il desiderio è forse uno dei motori emotivi più importanti della nostra vita. È quello che inizia, fa creare le coppie, perché ci inizia a desiderare un'altra persona, fa stare insieme le coppie, e molto spesso purtroppo quando inizia a mancare fa anche chiudere le storie d'amore, no? Certo, scoppiare le coppie. Gaber, nel brano che abbiamo appena ascoltato, ci dice che il desiderio è la radice di una pianta delicata che, se sai coltivare, ti tiene in vita. Infatti, dottor Rossi, come lei apriva, il desiderio è proprio il motore della nostra vita, è quello che ci spinge a metterci in gioco, a tirare fuori le parti migliori di noi, a trovare soluzioni, anche la capacità un po' di rispondere agli stimoli che arrivano dall'ambiente, a essere protagonisti. Insomma, è un'energia, così possiamo definirla, no? Che può tenere vive, che ci può tenere vivi nella vita e nella coppia. E l'importante è capire quanto sia importante e capire come mantenerla viva. Ma è assolutamente fondamentale, cioè non ci può essere una coppia se non c'è un desiderio continuo per il nostro partner, un desiderio continuo di vivere emozioni, di condividere delle cose insieme al nostro partner, condividere un percorso di vita. Quindi il desiderio è sia l'insieme di un'energia, come dicevi tu, pulsionale, quindi un'energia che richiama l'idea dell'eroticità. Certo. Sia anche un motore che ci fa stare insieme per la quotidianità, perché anche il desiderio della quotidianità, non solo quello erotico, è fondamentale per far sopravvivere le coppie in una maniera buona, efficace e soddisfacente, perché poi alla fine si sta in coppia per stare bene, no? Assolutamente. Allora ai nostri ascoltatori da casa potremmo chiedere qual è, di che, come alimentano il loro desiderio. Assolutamente. Se questa piantina che va tenuta in vita, curata, coccolata, quali sono i gesti, le attenzioni, gli integratori che usano per tenere viva la pianta del desiderio. Specialmente le strategie di seduzione. Ecco, io una cosa che dico sempre è che per mantenere vivo un buon desiderio all'interno di una coppia consolidata bisogna essere estremamente seduttivi tutti i giorni. Quindi anche una strategia di seduzione per una verso una persona che in fondo, certo, già conosci, in fondo hai già conquistato, è estremamente importante. Ma lei ad esempio quando si sveglia al mattino si trova seduttivo? Ma sì. E come si guarda e dice... No, mi guardo allo specchio e sono sempre contento di guardarmi allo specchio e mi trovo molto bene sempre. Ma il desiderio, dottor Rossi, è anche una questione di chimica. Molti dicono è chimica, in realtà è vero. È vero. È chimica, ma nel senso di neurotrasmettitori, ormoni, insomma un laboratorio che si mette in moto nel nostro cervello. È proprio così. Allora, la chimica ci fa subito pensare al più importante ormone del desiderio, che sarebbe il testosterone, che non è esclusivamente un ormone maschile, ma anche le donne hanno il testosterone. E ultimamente anche gran parte della ricerca scientifica sta dando spazio a un altro ormone, che è l'ossitocina, che anche quella sembra essere molto implicata all'interno della chimica del desiderio. Addirittura pensa che c'è un'università di Bonn sta studiando uno spray all'ossitocina che, dato agli uomini, sì, in modo particolare, darebbe vigore al desiderio e vigore alla loro sessualità. Sempre tutte queste, però, quindi cose uno ti spruzza un po' di ossitocina a tua insaputa, che cosa succede? E forse aumenta il desiderio. Ma la cosa curiosa è che tutte queste cose sono fatte prevalentemente per gli uomini. Nel senso che per l'uomo è più facile l'effetto ormonale ad accendere il desiderio. Quindi l'aumento del testosterone, un apporto di ossitocina nell'uomo è molto semplice, mentre la donna, avendo una sessualità che è molto più cerebrale, ha bisogno di molti più ingredienti, non solo quelli ormonali. Ecco, voi siete creature più semplici. In questo senso sì, molto. Ma chissà se i nostri ascoltatori sarebbero contenti di avere a disposizione questo spray all'ossitocina, o in qualche modo potrebbero temerlo. A proposito di ossitocina, lei ha citato il testosterone, insomma sembra che neurotrasmettitori e ormoni abbiano anche i loro giorni sì e anche i loro giorni no, ma l'importante è riconoscerli. Il giorno migliore per fare sesso? Il giovedì. È quanto emerge da uno studio fatto dalla London School of Economics and Political Science, pubblicato sulla rivista Psychology Today. Proprio il giovedì sarebbe infatti il giorno migliore per sfruttare gli alti livelli di sincronia erotica e potenziale ormonale. Se si consuma l'amplesso nelle prime ore del mattino, il piacere è amplificato. In questo momento del giorno, infatti, i livelli di testosterone negli uomini e di estrogeni nelle donne sono al massimo livello di libido. Se le maggiori performance siano in qualche modo correlate al fatto che il giovedì rappresenti una pre-pre-vigilia del weekend, non è dato sapere. Sarà il relax o solo un valore aggiunto a livello fisiologico? Fatto sta che i rapporti sessuali ne guadagnano e le soddisfazioni non aumentano solo a letto. Anche lavorativamente, come spiega la ricerca, il rendimento professionale migliorerebbe. In campagna ed in città, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Dottor Rossi, ma dai! Lei che dice, al giovedì? Ma questo è quello che sembra. Ma noi dobbiamo tenere conto di una cosa: la produzione di ormoni è sempre regolata da un sistema di produzione che segue i ritmi circadiani. Quindi sì, ci sono dei momenti della giornata, in modo particolare il mattino, quando viene prodotto il cortisolo, che quindi è precursore di molti ormoni, quindi c'è una maggiore produzione degli ormoni. E questa ricerca è abbastanza curiosa, diciamo, perché proprio il giovedì davvero ancora non si è capito, ma effettivamente a quanto pare questi ormoni sono meglio prodotti o più prodotti il giovedì. E in modo particolare interessante è proprio questa cosa del mattino. Ecco, svolendo il desiderio al mattino potrebbe essere davvero un po' più forte. E teniamo anche conto che siamo riposati, perché abbiamo passato una notte di si pensa di riposo, e quindi e non forse di passione. Perché forse meglio la passione al mattino. Meglio la passione al mattino. Siete d'accordo anche voi? Intanto vi leggo alcuni messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Diego ci scrive: il desiderio dovrebbero togliermelo. Meno problemi. Adesso molte ascoltatrici mi chiederanno il numero. Cosa devo fare con il mio compagno che una volta all'anno va in crisi e si isola per 15-20 giorni per capire se gli manco? Dottor Rossi. Ma è una cosa curiosa, interessante. Al primo momento avevo pensato che andasse in crisi nel periodo invernale, quando di solito si considera che c'è sempre un po' una diminuzione un po' fisiologica del desiderio, che poi si riaccende molto particolare con la primavera e l'estate. Ma questi momenti di crisi forse sono più da intendere come dei momenti di riflessione, quindi non tanto di crisi ma di riflessione. E se il giovedì, come diceva la ricerca, è il giorno ideale per dedicarsi alla coppia, ci sono delle indicazioni per gli altri giorni. In linea con noi abbiamo la dottoressa Giovanna Luini, medico e responsabile della comunicazione scientifica dell'OIEO. Dottoressa Luini, bentornata. Grazie, buongiorno. Ma lei lo sapeva? Lo sapeva del giovedì? No, però mi sono ovviamente segnata in agenda tutti i giovedì dell'anno a questo punto. Tutti di rosso. Esatto. E gli altri giorni che cosa facciamo? Ci sono delle indicazioni? Sì. Sappiamo che la cronobiologia studia, ad esempio, il rischio dell'insorgenza di alcune patologie in alcuni giorni invece che in altri, ma magari ci sono anche degli studi che ci dicono come sfruttare i giorni della settimana a nostro vantaggio per fare delle cose che aumentano il nostro benessere. Ah, sicuramente. Il lunedì, per esempio, vede un aumento del 20% del rischio di infarto, ma siccome a me non piacciono le notizie negative, preferisco dire che lunedì a questo punto è il giorno migliore per fare ogni cosa utile a liberarsi dallo stress. Divertimenti, meditazioni, insomma mettere insieme al lavoro qualcosa di piacevole. Il martedì è il giorno più produttivo, è il giorno in cui lavoriamo di più, portiamo a termine gli affari in sospeso. Il mercoledì è un giorno fondamentale perché pare che sia il migliore per affrontare il capo. Smaltite le mail del weekend, le incombenze dei primi due giorni, il capo quindi di solito è maggiormente buono e predisposto ad ascoltare. Cogliamo l'attimo. Esattamente, giovedì sappiamo già cosa si fa perché la si già rimanda detto. Tutto. E cosa esatto. Meglio al mattino, consiglia il dottor esatto. Rossi. E il venerdì invece pare che sia il giorno migliore per smettere di fumare. Il sabato invece, ma questo lo sapevamo già secondo me, è il giorno più a rischio per gli abusi alcolici. Mi piace la domenica perché a quanto pare la domenica tutti i buoni propositi si rendono concreti. Sembra che le email importanti, quelle di contenuto profondo, sì. abbiano una migliore probabilità di risposta positiva se mandate la domenica. Quindi probabilmente perché un giorno di riflessione e riposo o forse anche un giorno per tanti a contenuto religioso, a quanto pare i buoni propositi lì si concretizzano. Quindi mandiamo una mail la domenica per fissare un appuntamento al giovedì. Che sì. dite? Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi, buonissima giornata. Anche a voi, grazie mille, buongiorno. E allora l'invito ad oggi, voi provate a fare un grafico del vostro desiderio, anzi potrebbe essere interessante, dottor Rossi, chiedere di farne due. Esatto. Un grafico, uno per il desiderio nella coppia e uno per il desiderio che è un po' caratterizza la nostra vita e cerchiamo di capire se hanno andamenti uguali o invece diversi. Dottor Rossi, lei che cosa prevede? Ma io prevedo che ci saranno due grafici assolutamente diversi, perché la cosa curiosa è che quello che noto lavorando con le coppie è che spesso il desiderio nelle coppie sempre consolidate è abbastanza latitante, mentre ogni persona tra sé e sé ha dei forti momenti di desiderio, magari non rivolti al proprio partner. Questo perché secondo me il desiderio ha comunque un proprio motore e il motore del desiderio sono le fantasie. Ora, se io riesco ad avere delle fantasie sul mio partner, ecco che sarà molto più facile che abbia un desiderio verso il mio partner. Se invece, al contrario, verso il mio partner non ho più fantasie perché il rapporto di coppia è un po' troppo monotono, è un po' troppo rutinario, ecco che allora le mie fantasie riguarderanno altre persone che possono essere conosciute o sconosciute e in quel caso il desiderio c'è ma non per il partner. Francesca, che ci chiama da Vicenza, buongiorno Francesca. Buongiorno a voi. Eccoci, che cosa mi dice del desiderio? Ha provato a fare questo grafico, il desiderio nella vita di coppia, il desiderio nella vita? Posso dire che credo di non averne bisogno, in quanto io non riesco a distinguere la mia vita distinta dal mio rapporto di coppia. Ha un rapporto di coppia consolidato da anni, Francesca? Sì, consolidato da anni, ho un uomo meraviglioso e credo veramente un uomo molto sui generis, perché voglio dire, ha veramente delle qualità incredibili e credo di essere una donna molto fortunata. Molto fortunata. Francesca, ma ci dà una sua strategia per tenere viva questo desiderio, questa passione, questa voglia di intimità, di condivisione? Guardi, io l'avevo anche scritto nel messaggio, io credo che il mio desiderio comunque è quello proprio di invecchiare, di diventare vecchia, ottantenne assieme al mio uomo e la mia strategia, se di strategia si può parlare, è quella comunque vadano le cose, nonostante tutto, di sorridere. Sorridere perché comunque oggi c'è il sole, perché se non c'è comunque ci sarà. E quindi credo, voglio dire, con poi quando la cosa è condivisa, quando il sorriso è condiviso, io credo si possano superare veramente anche gli inevitabili brutti momenti. Certo. Grazie Francesca. A voi, auguri, buona giornata anche a lei. Molti di voi mi scrivono, sono sposato da anni, lui non mi cerca più, guardo le altre donne, ma non vorrei tradirla. C'è modo di risvegliare un po' l'amore? Credo che ognuno di voi sia stato avvertito che qui si svolgerà un seminario di educazione sessuale. Un comune scambio di energie, diciamo una mucchiata, una una serata di esperienze collettive al fine di renderci conto a che punto siamo oggi con il sesso e che cosa possiamo aspettarci dal sesso. Intanto, quanti di voi sono soddisfatti della propria sessualità? Spero sia senso del pudore. Spero sia timidezza. Una statistica ci dice che il 43% delle donne preferisce una bella notte di sonno ad una notte d'amore col marito. La merope generosa, una straordinaria Anna Marchesini. Dottor Rossi, saranno timidi i nostri ascoltatori, li invitiamo invece a parlare della loro sessualità, perché noi sappiamo che non è solamente il termometro della salute emotiva di una coppia, ma anche della salute del nostro organismo generale. In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno, dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Far bene l'amore fa bene all'amore, ma fa bene anche alla salute, è un termometro della nostra salute complessiva. Certamente, proprio su questi due versanti si gioca la questione della sessualità, soprattutto della sessualità maschile. L'uomo che riesce ad avere un rapporto sessuale soddisfacente significa che ha una buona condizione di salute, che quindi tutto funziona bene all'interno del suo organismo, abbiamo dei metabolismi che funzionano, abbiamo tutta una serie di situazioni che lo rendono efficiente dal punto di vista sessuale, ma contemporaneamente una buona sessualità ha un riflesso positivo sul sistema immunitario, sul livello di soddisfacimento anche psichico, quindi riduce il rischio di depressione e contemporaneamente aiuta anche a migliorare alcune questioni fisiche. Ad esempio, si è visto che una frequenza di rapporti sessuali corretta allontana il rischio del tumore della prostata. Ecco che è importante una valutazione della sessualità. Dottor Rossi, quindi il tumore è allontanato, come si dice, c'è una riduzione del rischio di tumore, ma così rispondiamo ai tanti ascoltatori. Si parla di coppie che hanno rapporti una volta alla settimana, due, una volta al mese, di coppie che invece non ce l'hanno più da anni. C'è una formula che fa bene alla salute, come ci diceva il dottor Gargiulo, e alla vita di coppia? Ma sì, allora, le ricerche scientifiche hanno indicato che due rapporti alla settimana sarebbe la misura giusta proprio per coniugare bene la soddisfazione psicologica e questo beneficio sul fisico. Dottor Gargiulo, conferma? Sì, direi senz'altro di sì, e poi ecco, è importante quando questo non succede che immediatamente venga allertato il medico, immediatamente se ne parli col medico. Questa è l'altra informazione da dare agli ascoltatori: non abbiate timore di parlare di questi problemi. Oggi fra l'altro ci sono anche dei rimedi che possono essere utilizzati al momento. Ecco, e il medico dovrebbe dal canto suo chiedere, oltre a misurare la pressione, che è sempre importante e ha a che fare anche con l'amore, chiedere anche al paziente come sta, come va la tua salute sessuale. Dottor Gargiulo, grazie per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie. Piena di desideri. Paola, buongiorno da Treviso. Prima dei mercati, strategie per aumentare il desiderio? Io cerco sempre di farmi trovare bella. Alla sera, anche se di giorno ho usato sempre le ciabatte, prima che arrivi mio marito uso dei bei tacchi alti. Sì, quanto Paola? 4, 7, 12? Parecchio alti, anche parecchio. 12. Anche 12. Non vado a spese. Sì. E mi trucco naturalmente prima che arrivi, cerco di essere sempre attenta a questo. E naturalmente nell'intimo cerco sempre di trovare completi nuovi, piuttosto sexy. Brava Paola, da quanti anni è sposata? Io sono sposata da 25 anni. Brava. Li ho appena festeggiati. Paola, tanti auguri e complimenti. Grazie, grazie. Vada di tacco e di lingerie. Aiuta. Stimola tantissimo, e no? La curiosità maschile. Ecco, voi, io vorrei un Paolo che ci racconta come fa a tenere vivo il desiderio della sua partner. Noi ce la siamo giocata bene con Paola. E voi, Francesco da Napoli? Eccoci qua, buongiorno. Francesco, vede che lei è una garanzia. Ma diciamo che lei ci ha provocati con il fatto che ci ha detto che forse abbia un po' di vergogna, ma l'argomento è intrigante e io sono certo di essere adesso additato per quello che dirò, però perché? Correrò il rischio, sì. Dai. Perché anche la redattrice della redazione mi ha fatto una domandina così. Io praticamente i primi 7 anni di matrimonio sono stato fedele al corpo e all'anima della mia consorte. Poi le cose sono cambiate. Sono cambiate, ma non, forse non per colpa mia, non sono, non ho mai cercato, però a volte i mass media, le cose che cambiano, i computer, eccetera, eccetera, portano a notevoli conoscenze. Che sono avvenute, ma ciò non toglie che la passione verso la mia consorte rimanga intatta, e questo forse per quello che mi riguarda è la cosa più importante, è una cosa positiva, è una cosa positiva, perché molte persone che invece hanno altre storie, magari per la moglie non hanno più interesse, non hanno più interesse, invece secondo me è sbagliatissimo. Francesco, mi regali la sua strategia? Sono semplicemente me stesso, sono leale con le altre persone, dico sempre di essere sposato, eventualmente qualcuna è interessata a me, le trovo senz'altro le altre persone sposate come me, che come vedono io non la porta, c'è un altro mondo. Dottor Rossi, Francesco, ecco, Francesco dice, con questa mia telefonata sarò additato, noi non vogliamo parlare di tradimento, eccetera, stiamo parlando di desiderio, ci asteniamo dai giudizi, anche se io sinceramente avrei qualche cosa da dire, ma non è il tema della puntata, dottor Rossi. Ma quello che c'è però è importante da notare, che con questa telefonata ci viene trasmesso questo concetto, che spesso alcune situazioni, vuoi anche di tradimento, quando aumentano il piacere e la passione, questo porta anche dei vantaggi all'interno della coppia. Questo non è un lascia passare per quindi lei mi sta dicendo, ho capito bene, sì, allora, che il tradimento può alluzzare il desiderio nella coppia, in alcuni casi, ma questo non significa che per desiderare il partner bisogna tradirlo, perché sennò è il crollo delle coppie, però in alcune situazioni proprio la passionalità che possono accendersi e, come dicevo prima, le fantasie che ci possono arrivare possono essere utili, no, per aumentare il desiderio all'interno della coppia. Essere e benessere. Che c'è il nostro matrimonio? Che c'è? Che cosa assomiglia ormai il nostro matrimonio? A chi? Al rapporto di un concierge di un albergo a 4 stelle con il cliente. Buongiorno, buonasera, cosa c'è per pranzo, cosa c'è per colazione, questo è. Queste si chiamano premure affettuose. Premure di un marito. Ma tu non sai come passi le due serate, lo sai sì o no? No, perché tu non sei cosciente di quello che fai. Tu la sera ti chiudi in camera, ti metti in testa quella cuffia e ascolti le canzoni di 30 anni fa, non quelle di ora, quelle di 30 anni fa. Mi neghi la mia intimità. Non ci sei, sei lontano, Gilberto, stai dall'altra parte. La sera vieni a letto, sai cosa fai quando vieni a letto? Buonanotte, buonanotte, ma c'è, ti giri dall'altra parte. È così. Poi il matrimonio, bel matrimonio. No, scusa. Tu lasciami andare, Gilberto, lasciami andare. Ti chiedo un minuto, Tiziana. Ho diritto a un minuto. Allora, scusa amore, spesso mi è capitato di ascoltare, di leggere, che dopo 20 anni di matrimonio c'è una naturale flessione fisiologica, c'è come un calo del desiderio. Dottor Rossi, dobbiamo rassegnarci? No, mai rassegnarci, però non dobbiamo annoiarci. Allora, Verdone, no, in questa piccola gag, cosa racconta? Racconta della noia dello stare insieme. Allora, le persone non si possono desiderare se non si divertono, se non giocano a stare insieme, se non c'è un po' di mistero nel cercare di scoprire sempre qualcosa di nuovo dell'altro. E se manca questo, ovviamente la noia distrugge tutto, ed è per questo che così tante coppie, dopo un po' di tempo annoiandosi, perdono il desiderio. Quindi noi ai nostri ascoltatori stiamo chiedendo di non essere timidi e di raccontarci le loro strategie per tenere vivo il desiderio, che Gaber paragona ad una pianticella, ma come mi fa notare Stefania, che mi ha scritto una mail, il desiderio etimologicamente deriva da desideribus, per l'appunto dalle stelle, quindi questo fa molta differenza. Saluti a Stefania, ringraziandola, ma noi facevamo questa sorta di paragone mutuato da Gaber. Ognuno poi il desiderio se lo vede un po' come vuole vederselo, no? Come una piantina, come una luce, come un motore, come un'energia. Come lo vedete voi, a che punto siete? Strategia, lei che è un grande esperto. Allora, se dovesse così mettere gli ingredienti di questa ricetta per tenere vivo il desiderio, che cosa metterebbe quindi? Un po' di mistero. Un po' di divertimento, un po' di gioco, un po', anzi tanto, tempo. Cioè, le coppie non stanno più insieme, sono prese dal lavoro, dai figli, dagli impegni, e se non stanno insieme, come fanno poi a desiderarsi? Ecco, quindi lo chiedo a voi, come fate a desiderarvi e chi desiderate? Giulio, buongiorno, ci chiama da Modena. Mi sembra un po' di essere la merope generosa. Giulio, buongiorno, è scappato. Riccardo, Buongiorno da Milano, sì. Ma poi vi dico già subito che ho anche Francesca, per cui invito anche le nostre ascoltatrici, perché io ho lanciato la sfida agli uomini dopo l'intervento di Paola, che ci ha raccontato la sua strategia, tacchi, biancheria intima, seducente. Ho chiesto agli ascoltatori, ma voi come tenete vivo il desiderio nella vostra partner? Riccardo, forse ce lo dice lei. Ecco, al momento no, siete un po' sguarniti. Credo di no, anzi mi dovrà aiutare il dottor Rossi. Nel senso che volevo portare la mia esperienza a conoscenza e capirci di più, perché secondo me ha qualcosa di patologico e che mi affligge da quando ho circa 20 anni. Adesso ne ho 32. Riccardo, non ci faccia stare sulle spine, ci racconti rapidamente di che cosa si tratta. No, praticamente io sono sempre stato un collezionista di donne, ma se mi passate il termine, da botte via. Ok. Quando invece mi fidanzo, questo desiderio cala drasticamente. Il sesso lo faccio con la mia compagna, ma non ho quel desiderio che avrei con una sconosciuta, per esempio. Beh, questo è veramente è un po' una condanna. È una condanna perché diventa in alcuni casi, come forse quello dell'ascoltatore, un po' un comportamento compulsivo, cioè quando non si può fare a meno, no, di cercare cosa? Di cercare il mistero, quindi lui è incuriosito da ciò che non conosce, quindi desidera ciò che non conosce, mentre quando ha qualcosa e conosce bene qualcosa, quindi una compagna, una fidanzata, il desiderio cala. Ecco, questo è una cosa che succede molto frequentemente. Veramente? Però, sì, sia per gli uomini che per le donne anche comunque. È un disturbo. Sì. È un disturbo. Senta, sì. Ma si cura? Beh, sì, tutto è curabile. Cioè, tutto è curabile, nel senso che bisogna semplicemente cambiare la modalità di indirizzo delle fantasie. Cioè, le fantasie non devono essere indirizzate su ciò che non si conosce, ma su ciò che non si conosce del partner. Quindi questo potrebbe essere, esatto, il suggerimento che diamo al nostro amico che si è definito collezionista di donne. Collezionista. Francesca. Buongiorno. Buongiorno. Ma sarò breve. Io credo che dipenda da due cose. Sicuramente avere il partner giusto. Perché nella mia esperienza personale io sono stata dentro un matrimonio per 12 anni con tantissima tristezza, sì, da un punto di vista sessuale. E con pochissimo desiderio e rari picchi di punta, diciamo così. Poi ho fatto una grossa svolta nella mia vita, ho trovato un altro partner con cui adesso non so neanche cosa possa, non me lo immagino neanche di non provare il desiderio nei suoi confronti, cioè il mio desiderio è sempre fortissimo. E anche, siamo già insieme da quasi 8 anni. Abbiamo un figlio più io ne ho due del mio precedente matrimonio, per cui non è una vita facile. No, assolutamente. È una vita piuttosto complicata. Sicuramente quindi credo che la persona giusta faccia mantenere di base sempre un desiderio, perché è la persona con cui hai trovato il feeling. Certo, gioca tantissimo la voglia di scoprire. Quello che diceva il dottor Rossi, certo, esatto, che è un po' questa. Sì. Io credo cioè l'attesa, io metterei anche l'attesa e poi l'attesa per la scoperta. Francesca, complimenti. È veramente un gioco. Un gioco. Le tappe del gioco che vive il bambino le abbiamo anche da adulti, per cui il gioco orale, il gioco manipolativo, noi le viviamo anche da adulti nella sessualità. Quindi anche questione di pelle, dottor Rossi. Sì, è questione di pelle. Due cose sono molto interessanti da questa telefonata. Innanzitutto la questione del gioco. Allora, a me piace pensare la camera da letto dei genitori come la nuova stanza dei giochi dei genitori. I bambini hanno la propria stanza dei giochi e i genitori hanno la propria, no, stanza dei giochi, che è la camera da letto. La seconda cosa è una cosa interessante. L'ascoltatrice ci faceva notare che il piacere che si prova durante la vita sessuale con il proprio partner prelude al desiderio, cioè solo se abbiamo una buona intesa sessuale, quindi abbiamo un buon feeling sessuale, facciamo l'amore bene con il nostro partner, allora possiamo desiderarlo di più. Ed è anche molto semplice questo, certo, perché se non viene stimolato il principio di piacere, il desiderio ovviamente cala. E a proposito di calo, ci sono momenti nella vita di una coppia in cui il desiderio e l'attrazione latitano, e per le donne questi momenti spesso coincidono con due fasi molto importanti. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maria Luisa Muggiasca, ginecologa all'ospedale Buzzi di Milano. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Postpartum e menopausa, due momenti in cui il partner si sente spesso messo da parte, ma è fisiologico, e sino a che punto, dottoressa? Sono due momenti, come ha detto giustamente lei, molto particolari e che non devono essere peraltro confusi l'uno con l'altro. Direi che il postpartum rappresenta sicuramente per la donna, ma a questo punto direi anche per la coppia, un momento molto delicato, perché improvvisamente c'è all'interno di una vita a due l'inserimento di del nuovo nato, che sicuramente ha delle caratteristiche, certo, peculiari, delle porta esigenze anche peculiari, attenzioni, energie, eccetera. Sì, esattamente sì. E la mamma viene, come dire, chiamata in prima istanza a dover soddisfare le esigenze del bambino. Ecco, qui è importantissimo che l'unione della coppia ci sia, si mantenga, e che da un lato la donna capisca che ci sono delle modificazioni umorali ed ormonali che la possono rendere un po' più come dire, fragile, sì, nell'affrontare quelle che sono le nuove esigenze del bambino, ma che d'altro canto come dire, si roderà, certo, e che imparerà appunto a conoscere, crescono, suo figlio, sì, e i figli crescono fortunatamente. Mentre, dottoressa Muggiasca, andiamo alla seconda parte. Intanto abbiamo Paola da Roma. Paola, buongiorno. Buongiorno. La mia storia è questa: 40 anni dopo 14 anni di matrimonio, ho avuto il, sì, primo figlio, e avevo già adottato un bambino e ce n'avevo, sì, un altro piccolo. Paola, noi siamo quasi in chiusura, sì, dovrebbe allora, venire alla domanda. Volevo dire che non ho avuto problemi in quel senso, anche avendo due bambini piccoli. Invece a 42 anni, dopo due anni del parto, sono andata in menopausa precoce. E lì è come se potevo chiudermi anche in convento, cioè non la libido non esiste assolutamente più, al contrario della prima Paola che ha telefonato. Quindi, sì, volevo sapere un'altra Paola, un'altra storia, e Paola vorrà sapere da Roma come si fa, si può uscire da questa situazione, dottoressa Muggiasca e dottor Rossi, rapidissimi ma efficaci come sempre. Allora, sicuramente sì, ci sono tanti modi per uscire da un impasse di questo tipo, e non sono soltanto farmacologici. Sicuramente c'è, come dire, una riscoperta, come già diceva l'altra signora, di quello che può essere la sessualità e la vita di coppia. Bisogna avere un partner che accompagni in modo adeguato questo cambiamento della vita della donna, e la donna stessa però non deve sentirsi, tra virgolette, finita. Certo, perché dottor Rossi, però, come dice Paola, il desiderio è spento per una serie di ragioni, la menopausa sicuramente è un momento di passaggio. Dottor Rossi, le sue pazienti che le raccontano questo problema, lei come fa ad aiutarle? Cerco di stimolarle a trovare una nuova intesa di coppia, un nuovo inizio, no? Una nuova scoperta di un nuovo modo di vivere, perché ormai non c'è più la necessità del parto, dei figli, è un momento nuovo della vita. Ecco, deve essere una rinascita la menopausa, non è la fine ma è la rinascita. Essere e benessere. Come promesso, eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati. Chiudiamo la puntata di oggi parlando di yoga, una disciplina, o meglio una forma di conoscenza, in cui lo strumento principale è il nostro corpo, che cambia di continuo. Non è facile guardare in faccia la trasformazione, è il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore, è in trasformazione. Con noi per guidarci in questa sorta di percorso, che vuole essere un mini corso per la nostra estate, Lisetta Landoni, insegnante di yoga e presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano. Buongiorno. Grazie Nicoletta. Allora, oggi e poi nel corso di diverse puntate nel mese di agosto esploreremo ogni settimana un aspetto diverso dello yoga, attraverso l'esecuzione di una postura o l'uso di una tecnica respiratoria oppure di una tecnica di concentrazione. Difficile? La concentrazione? La concentrazione non più di tanto, diventa difficile quando si parla di meditazione. Infatti poi dopo citerò più avanti Sini, Carlo Sini, il filosofo, cosa ha detto a proposito della meditazione, dove da buon laico ha detto la meditazione è proprio difficile. Bene, ecco. Speriamo allora con i suoi consigli e il suo aiuto di avvicinarci, insomma, di non diventare proprio bravissimi, ma almeno di andare sulla strada. E a proposito di strada, spulciando nei libri dello yoga, lei mi diceva che abbiamo trovato un po' delle figure, no? Che in qualche modo possono farci da sherpa. Sì, bravissima, esattamente, sì. Delle tecniche che, una in particolare si chiama la tecnica dello sherpa, la respirazione dello sherpa, che aiuta proprio a seguire molte persone che in questo momento staranno scalando delle vette oppure saranno impegnati in passeggiate faticose lungo delle montagne abbastanza impervie. Ecco, qui c'è un suggerimento che è veramente valido, che è stato sperimentato anche da un allievo che aveva fatto il K2 e ne aveva ottenuto un grandissimo beneficio. Ecco, questo aspetto, cioè, noi abbiamo parlato di sherpa, c'è proprio una camminata di cui lei, sì, ci parlerà, e che suggeriamo a chi dei nostri radioascoltatori adesso magari è in montagna e quindi ha come obiettivo delle camminate più o meno difficili, ma questo va un po' contro all'immagine che ciascuno di noi profani ha dello yoga, quindi di una disciplina molto statica, fatta un po' della con meditazione, concentrazione, movimenti molto lenti, e invece questi yoghi si muovono, e come? Si muovono, sì. Lo yoga proprio tradizionale, come viene trasmesso dalle scritture, è uno yoga impegnativo sia da un punto di vista fisico, sia dal punto di vista della respirazione, di cui parleremo ampiamente, sia dal punto di vista, come dicevo, della meditazione. Quindi sono tutti aspetti che vaglieremo nelle prossime puntate, ma per quanto riguarda le posizioni, sì, sono proprio impegnative e debbono essere fatte benissimo. Ma noi possiamo quindi addentrarci nelle varie posizioni che lei ci suggerisce, lei ci guida, sì, e diventeremo bravi, bravini o bravissimi a seconda dell'impegno, o c'è una sorta di predisposizione individuale? Ci può essere una persona più sciolta che abbia una predisposizione individuale, però attenzione, perché al 90% lo yoga è tecnica, quindi se la tecnica è esatta e il corpo viene stimolato nella misura giusta, nella direzione giusta, i risultati ci sono. A qualunque età. A qualunque età. Questo è rivolto a me, mi fa piacere comunque. Allora tocca camminare. Sicuramente. Come si procede allora? Questa camminata dello sherpa in che cosa consiste? Allora, consiste nel muovere i passi in maniera ordinata. Ad esempio, e qui illustro subito la tecnica, stiamo camminando in montagna in questo momento. Sull'inspirazione facciamo 4 passi. Poi ci fermiamo un tempo, poi facciamo altri 4 passi, sempre contando fino a 4, e poi sospendiamo la camminata per un tempo. Quindi continuiamo così: 4 passi secondo 4 tempi, una fermata su una assenza di respiro, 4 passi secondo 4 tempi, una fermata con l'arresto del respiro. Quindi si inspira e si espira 4 tempi. Si trattiene a polmoni pieni e a polmoni vuoti un tempo. Questo però è puramente indicativo, perché poi ci sono delle persone che hanno o dei tempi più corti o dei tempi più lunghi, e chiaramente il consiglio che do è di prolungare poi i tempi, perché se uno riesce a fare una camminata di 8 tempi, poi trattiene, poniamo 4 tempi e poi 8 e poi ancora 4, questo indubbiamente porta lontano, permettetemi, ma è proprio così. Quindi si trattiene il fiato, si cammina e poi si trattiene il fiato, si cammina e si trattiene il fiato, quindi in questo modo non viene il fiatone? Non viene il fiatone. Perché è una ginnastica? Esattamente, è una ginnastica respiratoria unita a tutta una serie di conseguenze sul piano proprio della circolazione sanguigna, dell'attività cardiovascolare, eccetera, eccetera, che mette in luce tutti i benefici della camminata e risparmia, diciamo, l'aspetto più faticoso. Prima della camminata lo yogi si riposa, si fa delle, in qualche modo un po' di riscaldamento, oppure gioca solamente sul respiro? Beh, no, tutto, farà tutto. Un bravo camminatore, un bravo alpinista soprattutto dovrà fare proprio un bel lavoro, beh, di muscolatura delle gambe, di addominali, di glutei, di spalle, di braccia. Proviamo a pensare, un alpinista ad esempio che fa scalate non può non avere le braccia forti, non può non avere le gambe forti, quindi consiglio proprio caldamente di praticare lo yoga fino in fondo, ne avrà solo benefici. Noi quindi possiamo però suggerirlo anche a chi fa una semplice passeggiata in montagna, questo per prendere sì, un po' il passo. Sì, ma anche per i bambini, cioè noi genitori o nonni, ecco, portiamo a spasso i bambini, andiamo a fare una passeggiata tutti insieme. Ah, ma come sono stufo, che barba, salire così, prova a fare questo. Quindi diamo delle indicazioni in modo che dal bambino alla signora non più giovanissima al vecchio praticante la montagna farà tutto con assoluta disinvoltura. Questa ginnastica del respiro. Ma mi corregga se sbaglio, noi adesso siamo andati in montagna, ma anche gli apneisti usano molto le tecniche yoga per farsi fiato. Sì, assolutamente, per farsi fiato da una parte, o meglio, per anche in questo caso per preparare proprio è una ginnastica dei polmoni, dei bronchi e dei polmoni, abituare i polmoni a fare questo movimento di contrattilità e di espansione, quindi a usare proprio la parte più elastica dei polmoni, non solo ad allenare il diaframma, a conoscerlo perfettamente nello svolgimento delle sue funzioni, e anche il trasverso dell'addome che collabora molto con il diaframma. Se ci venissero in mente tutti i muscoli e tutte le parti del nostro organismo che mettiamo in moto con un respiro, viene da non respirare più, da trattenerlo. No, la cosa bella è che invece quando se c'è un insegnante che illustra brevemente in un modo semplice la pratica, noi riusciamo a usare al meglio questi muscoli, ma poi entriamo subito in amicizia, in dimestichezza con questi muscoli e li facciamo nostri e poi li sfruttiamo fino in fondo, e questa è la cosa importante. Ecco, ma mi tolgo una curiosità: per chi lo yoga non l'ha mai praticato, questa tecnica del respiro l'abbiamo usata per fare la passeggiata, la camminata, anzi mi correggo, dello sherpa, sappiamo che lo usano anche gli apneisti, ma qual è il respiro che fa bene? Ci sono tra l'altro degli studi scientifici che dimostrano che sia proprio veramente un benessere totale per il nostro organismo respirare correttamente. Sì. Allora, ci insegna a respirare bene anche magari quando siamo seduti o in piedi, stiamo guardando un panorama, ci prendiamo quei classici 2 minuti per noi, potremmo provare, quindi abbiamo a disposizione tanti minuti durante la giornata per diventare più per cercare una sintonia con il nostro respiro. Mi sembra che ogni tanto questo sia il problema, che manchi, respiriamo magari non troppo profondamente. D'altra parte, respirare magari troppo profondamente non siamo capaci, ci manca la tecnica. Esatto, è questo il punto. Ecco, manca allora la tecnica. Ma allora si può fare per radio il respiro lungo e il respiro corto, in modo che i nostri ascoltatori da casa capiscano? Sì. Io le faccio da cavi allora. Benissimo. Allora, e io le spiego esattamente qual è l'errore che bisogna evitare, che è la cosa più importante. Sì. Allora, anzitutto mai respirare con la pancia. Mai inspirare buttando in fuori la pancia. Anzi, tenerla contratta leggermente, come se temessimo di far vedere magari un qualche rotolino di ciccia. Ecco, quindi questo è da fare in spiaggia, questo ci viene bene perché siamo tutti un posto. Po' con la pancetta indietro. Okay. Ma anche se stiamo aspettando il tram, anche se stiamo facendo la spesa, in qualunque momento noi teniamo contratta la pancia, proprio diciamo la pancia, dall'ombelico in giù, dall'ombelico al pube. A me viene da tenere anche il respiro, però. No, adesso le farò vedere come si usa. Sì. Allora, la pancia è contratta, siamo tranquilli, ci stiamo guardando, siamo contente. Sì. Benissimo, adesso inspiriamo attraverso il naso, però forzando ad aprirsi le coste fluttuanti. Possiamo individuarle appoggiando le mani così sulla parte inferiore del torace, ed è un movimento un po' a fisarmonica, tipo così. Io inspiro e le coste fluttuanti si aprono verso le mani, costringendo quindi le mani ad allontanarsi tra loro, giusto? Certo. E quindi riusciamo a usare la gabbia toracica nella maniera per cui è stata fatta. Quindi inspiriamo, poi espiriamo e con le mani stringiamo. Sì, la usiamo proprio come una fisarmonica. E questa chiaramente non è una cosa che si può fare per la strada, ma in spiaggia parchi, sì, perché no? In mezzo a un prato, perché no? Anche in città, magari nei vari parchi, nelle varie situazioni le più diverse, a contatto con l'aria più... Beh, insomma, sì, un po' meno c'è meno traffico nelle, sì, città, quindi ecco, va bene, ma sicuramente in casa proprio al mattino o in ufficio quando uno è proprio un po' raso terra, ecco, quando è un po' distrutto. Quante di queste respirazioni sono sufficienti per darci, come si dice, un po' di tonico? Sembra che una respirazione yogica completa, quale quella che ho illustrato in questo momento, una soltanto sia in grado di coprire come benessere l'intera giornata. A me sembra francamente un po' troppo semplicistica come soluzione. Io dico che se invece continuiamo per 5 minuti a farci, proprio a concederci una pillola di benessere, però di 5 minuti, ecco, allora riusciamo a riequilibrare anche un buon rapporto ossigeno-anidride carbonica, riusciamo a rilassarci. Quindi, ecco, molto semplice, inspiriamo, dilatiamo. Le costole fluttuanti che si aprono e poi buttiamo fuori l'aria, chiudiamo. Esatto, e le mani stringono la gabbia toracica. E per oggi è tutto. Vi sentite un po' cambiati? Vi aspetto domani, sempre dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.